Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1838. Ad 84 anni scompare un pezzo di storia francese. Talleyrand è morto. Al via i primi lavori per una ferrovia negli Stati italiani, sarà tra Napoli e Portici. Stati Uniti dopo lo shock sui mercati, lieve recupero dell'economia, ma nuovi timori. Timidi tentativi di riforma dal regno delle due Sicilie a quello di Sardegna. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura parliamo della scomparsa di un grande politico che ha guidato la diplomazia francese tanto sotto Bonaparte quanto sotto il re. Se ne va Talleyrand. Il mistero di un uomo ha quasi sempre una radice nella sua infanzia, e quella di Charles Maurice de Talleyrand, per Igor, principe, vescovo, politico, intelligentissimo, dissoluto e pur coraggioso campione di camaleontismo, quell'infanzia rivela alcuni particolari che forse non hanno deciso il suo essere, ma lo hanno segnato. Zoppo fin da piccolo fu privato del diritto di maggiorascato e avviato quindicenne alla carriera ecclesiastica. Frequentava un'attrice, ma poco importava. Del resto, per tutta la vita, si dedicò al lusso e alle donne. È così che forse ha imparato a indossare sempre una maschera. Nessuno davvero può dire di aver capito, guardandolo, cosa pensasse. Servì Luigi XVI, preparò la Costituzione, venne scomunicato dal Papa e ordinò i primi vescovi costituzionali, si schierò per la morte del re con cui peraltro intratteneva rapporti segreti, poi fuggì in Inghilterra, ministro sotto il Direttorio e poi sotto Napoleone, che sostenne e tradì. Il suo trionfo fu il Congresso di Vienna come ministro di Luigi XVIII, poi di nuovo fu costretto al ritiro. Tornò in auge sotto Luigi Filippo, ottenne la libertà del Belgio e realizzò l'alleanza tra Francia, Spagna, Inghilterra e Portogallo, fino al 1834, quando lasciò la vita pubblica. Si dice che abbia rifiutato di ricevere i sacramenti fino all'ultimo e che poi abbia ceduto, ma in extremis sia riuscito a ingannare anche il confessore. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Per la tratta tra Milano e Venezia siamo ancora ad una fase puramente progettuale, con il governo austriaco che sta per dare il via libera. A Napoli invece si procede più spediti, sono già iniziati i lavori per la ferrovia che collegherà la città a Nocera Inferiore e a Castellammare. Il progetto è stato affidato ad un ingegnere francese che in cambio ne ha ottenuto la concessione. Intanto lo stesso re delle due Sicilie, Ferdinando II, sta varando una serie di riforme. Oltre alla centralizzazione del potere in Sicilia, che sta trasferendo nelle grandi città Catania, Palermo e Messina su tutte, ha riformato l'apparato di polizia. Dall'altra parte della penisola, nel regno di Sardegna, tentativi di riforma li sta facendo anche Carlo Alberto. È entrato in vigore il nuovo codice civile che accoglie alcuni elementi di quello napoleonico. Il lavoro dei giuristi piemontesi peraltro è durato 6 anni. Carlo Alberto ha anche abolito le giurisdizioni feudali in Sardegna e riorganizzato sull'isola l'amministrazione della giustizia. Gli economisti sono seriamente preoccupati per gli effetti che sta avendo sull'economia reale o che potrebbe avere soprattutto nei prossimi mesi lo shock finanziario dell'anno scorso. È vero che quest'anno i dati sono migliori delle attese, i prestiti bancari sono tornati ad aumentare dell'1% dopo il calo del 7% dell'anno scorso e torna a salire l'inflazione, che gli analisti vedono come un segnale di ripresa dell'attività economica. Le preoccupazioni però, tra cui l'eccesso di moneta in circolazione, l'alto livello di bancarotte personali e quindi di disoccupazione, non fanno ben sperare. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Se volete scriverci, come sempre, le vostre missive digitali potete inviarle a gazzettino@radio24.it oppure lasciarci un commento sulla nostra pagina Facebook. Visitate il nostro blog. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.